Io ho sempre detto che probabilmente era la scienza che aveva mancato il suo appuntamento, perché la IARC aveva in pratica valutato studi indipendenti ma che erano poco robusti, e EFSA aveva raccolto le raccomandazioni della BFR tedesca, in cui la maggioranza degli studi erano compiuti dall'industria e in più molti di questi studi erano rimasti segreti ai più fino a quel momento. Quindi ho detto: è la scienza che manca, siamo noi scienziati che manchiamo, perché questo doveva essere un argomento, vista la diffusione del glifosato in Italia e in Europa, che andava affrontato già tanto tempo fa. Quello che ci siamo chiesti è: ma le dosi, siccome una delle osservazioni che veniva fatta era: ma sì, alla fine, anche se c'è qualche risultato che ci porta a pensare che il glifosato sia cancerogeno, le dosi sono così alte rispetto a quelle che vengono assunte quotidianamente dagli uomini, dalle persone umane, che sicuramente il rischio non c'è. E allora ci siamo detti: andiamo a vedere cosa fanno queste dosi. Devo dire che l'obiettivo iniziale era quello di valutare come poteva essere monitorato il glifosato nei tessuti, nei liquidi biologici, in visione di uno studio a lungo termine che mettesse invece in evidenza i possibili effetti cancerogeni e sulla riproduzione e lo sviluppo. Quindi non ci aspettavamo, devo dire con tutta sincerità, che a quella dose, che è la dose giornaliera ammessa dalla Environmental Protection Agency negli Stati Uniti, ci potessero essere effetti di rilievo. Invece questi effetti li abbiamo osservati. Rispetto a quanto annunciato a novembre, ci sono delle novità, e sono novità che in qualche modo ci allertano. Insieme ai nostri partner internazionali, più di 7 laboratori sono stati coinvolti negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, per arrivare ai risultati di questo studio, e verranno coinvolti anche per lo studio a lungo termine. Noi riteniamo che ci sia la necessità di fare chiarezza. L'Istituto Ramazzini non può condurre da solo questa battaglia. Nel 2022 noi avremo la rivalutazione per l'autorizzazione del glifosato e non possiamo arrivare nelle condizioni in cui ci siamo arrivati in novembre scorso. Cioè dobbiamo fornire dati solidi perché i nostri politici, il Parlamento europeo, possa, sulla base delle considerazioni di EFSA e di altri enti regolatori, possa dire: il glifosato è cancerogeno oppure non è cancerogeno, oppure non è cancerogeno ma ci possono essere altri tipi di evenienze. Questo è molto importante, i cittadini hanno bisogno di recuperare fiducia nelle istituzioni, e la fiducia non si recupera a parole, la fiducia si recupera con i fatti. Noi siamo una cooperativa, siamo proprietà dei cittadini, e con i cittadini vogliamo svolgere questa ricerca. Lanciamo qui quindi una campagna di crowdfunding in Europa ma anche negli Stati Uniti. Molti hanno già risposto. Questo studio pilota è stato fatto con fondi derivati da eventi di vario tipo nella nostra comunità, e vorremmo andare avanti su questa strada. Invito EFSA, invito IAR, invito le agenzie regolatorie a partecipare ad un tavolo dove noi ci poniamo nel nostro ruolo, che è quello degli scienziati e quello dei ricercatori, cioè come deve essere fatto uno studio su una sostanza così diffusa che espone miliardi di persone ma a basse, bassissime dosi. Questo implica anche una discussione su come il risk assessment è stato fatto finora, e spero che questo sia un primo passo per una serie di eventi costruttivi per la salute pubblica. La votazione sul tema del glifosato mi pare fosse il 27 di novembre. Noi abbiamo ricevuto i tabulati dall'Università di Bologna su alcuni endpoint importanti il 20 di novembre, e ci siamo sentiti responsabilizzati di dire al nostro ministro che in sede di votazione tenesse conto del fatto che anche le basse dosi potevano avere effetti. Non abbiamo annunciato nessun risultato, ma semplicemente abbiamo portato un'allerta su questo tema. Il bioaccumulo comunque non era ancora stato valutato, è uno dei risultati che abbiamo avuto poi solo in seguito dai nostri colleghi, e poi ora i dati sono pubblicati. Ecco, allora si trattava di un'allerta, una specie di richiamo da parte di un gruppo di scienziati, oggi si tratta della pubblicazione dei dati.